Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ratto! Prendi la scopa! Hai idea di che accadrebbe se si sapesse che c'è un ratto nella nostra cucina? Vai, portalo via da qui, sguattero! Avete appena sentito una clip tratta da Ratatouille, il famoso film di animazione su Topo Cuciniere. Perché? Perché oggi parliamo di Elica, una società che è leader mondiale nella produzione di cappe per cucina o cappe domestiche, e quindi parliamo del mondo della manifattura legato alla cucina, che è un concetto tipicamente made in Italy. Gli aficionados di questa trasmissione sanno che io non amo particolarmente la cucina, i cuochi e tutta questa massa di propaganda insopportabile sul mondo del food, che vorrebbe ridurci a un povero paese che riempie il desco agli altri e cade nella miseria, perché se il nostro modello di sviluppo fosse basato su questo saremmo finiti. Però il mondo della manifattura e il mondo di chi produce cucine, di chi produce pentole, di chi produce la meccanica per l'agricoltura, che è quello che rende possibile anche il mondo dei cuochi, ci piace molto, perché noi della manifattura siamo innamorati. Allora, Elica, buongiorno dottor Casoli. Buongiorno a tutti. Com'è che si fa a diventare i leader mondiali nella produzione di cappe per cucina? Ma ci si mette tanta passione, cerchiamo ogni giorno di inventarcene una nuova, innovazione e soprattutto rompere le regole, cercare di essere un po' disruptive. Ecco, perché voi avete trasformato un po' quello che era la funzione della cappa, che con voi non sono più diventate semplici accessori, ma oggetti di design e magari anche capofila di una serie di componenti che danno alla cucina un altro senso, un'altra estetica, un'altra funzione, e magari costano un pochino di più, consentendovi di recuperare dei margini che poi a loro volta consentono di essere competitivi. Sì, beh, diciamo che noi abbiamo cercato di portare un po' quel tocco italiano su un prodotto che era un po' banale, perché quando siamo arrivati la cappa era appunto una cosa sotto pensile che serviva solamente per aspirare. Noi ci abbiamo messo l'illuminazione, ci abbiamo messo il design, abbiamo cercato di dare, come diceva giustamente lei, del valore aggiunto a un prodotto, ed è stato forse uno dei primi che incomincia a inglobare anche altre funzioni. Questo per noi è un grosso vantaggio, perché veramente riusciamo adesso ad essere in cucina, non chiaramente allo stesso livello del forno o del piano di cottura, ma proprio lì stiamo cercando di andare. Ecco, comunque pensate che Elica produce ogni anno 19 milioni di pezzi, ha 3.600 dipendenti, 439 milioni di fatturato, 7% di EBITDA, 3% di utile netto e 7 stabilimenti, e anche quotata in borsa. 7 stabilimenti in Italia, Polonia, Messico, India, Cina. Ecco, la vostra strategia in che cosa consiste? La nostra strategia consiste nel rimanere in vetta a livello di penetrazione di mercato nei mercati del mondo. Noi oggi siamo market leader in India, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Italia, in Nord America, quindi in Giappone. Abbiamo dei luoghi dove veramente riusciamo a dire la nostra e riusciamo ad avere questa posizione invidiabile. Cerchiamo di mantenerla, cerchiamo di continuare a fare investimenti in giro per il mondo, ma anche in Italia, e per permetterci di continuare ad essere competitivi, ma anche soprattutto innovativi. Oggi in cucina, quello che lei prima parlava della cucina spettacolo, è vero, però c'è una sovraesposizione oggi della cucina, ma è anche vero che noi questa cucina spettacolo la stiamo esportando in giro per il mondo, e anzi penso che siamo noi che andiamo in giro a farci cucinare all'italiana, da cuochi e da famiglie un po' dappertutto. Ecco, il mercato tra l'altro è in crescita, perché mi dica lei poi se ho detto bene, da un lato c'è un trend mondiale che va verso l'aumento del consumo di pasti fuori casa, il che porta anche a aumentare il numero di cucine vendute per la ristorazione collettiva, che devono essere sempre più belle, perché spesso si tende a mostrare la cucina, ad avere la cucina a vista. Per quanto riguarda la preparazione domestica dei pasti, c'è un altro trend di mercato che è quello della crescita della borghesia nei paesi in via di sviluppo. In paesi un tempo poverissimi come l'India, come la Cina o come il Brasile, aumentano le file della borghesia di qualche decina o centinaia di migliaia di persone ogni anno, e tutte queste sono persone che sono in grado di comprarsi una cucina come si deve. Esatto, lei è stato chiarissimo e perfetto. Il mercato globale mondiale della cucina aumenterà, in previsione l'anno prossimo, del 3%, che è tanto. Però considerate che all'interno di questo 3%, noi come azienda, per esempio, siamo cresciuti quest'anno in India del 97%. Quindi è un po' a macchia di leopardo. Ci sono delle zone del mondo dove centinaia di migliaia, se non milioni di persone stanno superando un livello di classe sociale, e questo qui per noi intendo economia italiana, economia del design, economia della ricerca sempre di più del servizio da dare al cliente, è sicuramente una spinta importantissima. Senta, tra l'altro questo è molto interessante, perché il vostro modello prevede una totale verticalizzazione, il che, detto fuori da termini economici, vuol dire che voi fate il più possibile al vostro interno, anche i componenti sono fatti al vostro interno, non siete un'azienda assemblatrice che delega ai fornitori, tenete tutto dentro, il che vuol dire che accumulate competenze, accumulate saper fare e potete anche dare più lavoro anche nel nostro paese. E noi teniamo molto dentro, cerchiamo di essere molto verticali, come diceva lei, proprio per cercare di controllare i processi produttivi. Sembra strano, ma anche su un prodotto come una cappa aspirante la componente del processo è diventata importantissima, certi tipi di ripulitura dell'acciaio, certi tipi di stampaggio, sovrainiezione, incominciano ad essere molto sofisticati, e il fatto di averle dentro ci permette di saperle fare solo noi, o perlomeno di avere un vantaggio rispetto alla nostra competizione, e questo è il discorso della verticalizzazione. Poi chiaramente questo ci porta ad essere più grandi, noi con un fatturato non miliardario, perché siamo intorno ai 500 milioni di fatturato. Sì, siete medio grandi per l'Italia e piccoli per il mondo. Siamo medio grandi per l'Italia e piccolissimi per il mondo, ciononostante noi dobbiamo avere un numero di persone, noi siamo sicuramente grandi come numero di persone, perché avere 4.000 dipendenti con 500 milioni di fatturato significa sicuramente avere un human intensive. Senta, come sta andando il titolo? Ma il titolo sta andando bene, negli ultimi mesi è andato molto bene, il mercato incomincia a riconoscere il valore dell'impresa. Se poi vede il valore, oggi l'azienda vale 160 milioni di euro, che è poco più di 3,5 volte l'EBITDA, che è un po' bassino, come rapporto. Secondo me possiamo esprimere di meglio, però vedremo un po' i mercati e vedremo soprattutto se noi saremo in grado di deliverare quello che abbiamo promesso. Certamente, ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, restate con noi. Fabbrica 2.4. Hai idea di che accadrebbe se si sapesse che c'è un ratto nella nostra cucina? Vai, portalo via da qui, sguattero! Rieccoci in linea, ancora un po' di Ratatouille per parlare di cucine, ma di industria delle cucine. Allora, stavamo parlando con Francesco Casoli, che è il presidente maggior azionista di Elica, abbiamo detto qualcosa sul titolo. Ecco, voi siete un'azienda eccellente, siete un brand, siete un riferimento nel mercato, però avevo di fare un po' l'avvocato del diavolo, 7% di EBITDA e 3% di utile netto è un po' pochino, dottor Casoli. No, non è pochino, è pochissimo, nel senso che sicuramente noi stiamo uscendo da un periodo La crisi del 2008 ha colpito tutti quanti, a noi anche, e per combatterla noi abbiamo diversificato, nel senso che abbiamo spinto tantissimo sul numero dei prodotti per poter essere presenti in tutti quanti i mercati. Considera che oggi la nostra azienda produce circa 2700 modelli di cappe, che è un numero monster, quindi un gran numero. Questa complessità indubbiamente ci crea degli irrigidimenti in produzione che stiamo sganciando, che stiamo ripulendo. Quindi questo è il momento proprio della normalizzazione dell'impresa. Noi consideriamo che questo sia una delle cose che ci permetteranno di alzare a livelli soddisfacenti questo 7%, che sicuramente a me, come maggiore azionista dell'Elica, non è che fa tanto piacere, anzi, assolutamente. Ecco, ma forse una migliore redditività potrebbe arrivare da una maggiore automazione? Ma dipende, guardi, come tutte le cose complesse la risposta è dipende. Noi siamo esattamente al contrario. Noi in questo momento stiamo smontando dei robot perché abbiamo visto che certi tipi di lean, certi tipi di produzione hanno bisogno di avere una flessibilità diversa, e la robotizzazione estrema ti irrigidisce ancora di più. Senta, lei sembra un eroe dei lavoratori, cioè prima mi dice di tenere tutto all'interno e di non delegare, adesso dice che i robot vanno usati cum grano salis, insomma... Certo, ma lei non è che sarà magari uno di quelli che mi dice che la Industry 4.0 è la soluzione a tutti i problemi? No, assolutamente, nulla è la soluzione a tutti i problemi. Appunto. Nella vita non esiste niente che sia la soluzione a tutti i problemi. Ma lei che cosa ne pensa dell'Industry 4.0 però? Una grande operazione di marketing, è una grande operazione di rivoluzione annunciata. E le rivoluzioni annunciate di solito vengono vendute per quello che non sono. Noi siamo all'interno, per esempio, del WCM, che è un consorzio sul World Class Manufacturing, che è un concetto al quale so che lei tiene moltissimo. Ne parliamo dopo, andiamo con ordine. Stavamo parlando dell'Industry 4.0. Stiamo parlando dell'Industry 4.0, ma è stata inventata in Germania dalla Siemens, e la Siemens fa sistemi di produzione automatizzata. È chiaro che sia stata poi pompata in giro a destra e a sinistra per portarla come la panacea di tutti i mali. Come lei dice, certo che non lo è. Non lo è, e onestamente io sono un po' disappointed, come si dice in inglese, quindi sono un po' disturbato da questa cosa, perché oggi sembra che se non sei 4.0 nulla funziona. Questo all'interno dei vostri stabilimenti, all'interno degli stabilimenti delle aziende, questo è un aspetto. Poi c'è anche invece un altro aspetto dell'interconnessione che è relativa all'interconnessione dei prodotti. L'IoT però, quella è un'altra cosa, non c'entra niente con l'Industry 4.0, qui stiamo parlando dell'Internet of Things, che è quella su cui stiamo lavorando e stanno lavorando tantissimi, quindi mettere intelligenza all'interno del prodotto per darti qualcosa in più, per riuscire a dare al consumatore un vantaggio in più rispetto al prodotto che comprano, ma non c'entra nulla con l'Industry 4.0. Sì, guardi. L'Industry 4.0 è un modello produttivo all'interno degli stabilimenti, che vuol dire allineare in orizzontale tutta la produzione con i fornitori, con i clienti, e monitorare tutto. Sì, che è quello che stiamo facendo da anni tutti quanti noi, perché poi alla fine stiamo parlando della logistica avanzata. Ecco, non è che adesso deve arrivare una società di consulenza o un produttore di robot che ci insegna che bisogna mettere in lean o in collegamento tutto quanto. Senta, avanza ancora poco tempo, mi spieghi in estrema sintesi che cos'è la World Class Manufacturing e poi perché è particolarmente importante per voi, ma distinguiamo la definizione dalla invece l'analisi calata nella vostra realtà. Allora, la World Class Manufacturing, le dico due cose. La prima, sicurezza; seconda, eliminazione degli sprechi. Quindi è una metodologia che tende a massimizzare la sicurezza e minimizzare gli sprechi. Assolutamente. Poi sulla sicurezza non si massimizza. Sulla sicurezza non si tollera neanche un gradino in basso, quindi deve essere totale e si deve tendere alla totalità. La minimizzazione degli sprechi è una battaglia giornaliera, bisogna essere veramente dei mastini, Questo è il concetto, diciamo, che fa da cappello a tutto quanto. Ecco, poi chiaramente... c'è un'associazione su questa metodologia della quale lei è diventato presidente. Sì, io sono stato insignito di questa, e ne sono molto orgoglioso, di questa presidenza. È un'associazione che è fondata da FCA, da Unilever, da Fiat, CNH, Fiat, Unilever, CNH, Merloni Ariston Thermo e Royal Mail. Queste aziende formano questa associazione che si occupa di sviluppare questi concetti e soprattutto di allargare questa platea di aziende che si occupano di queste cose. Secondo me questa è l'industria seria e concreta che darà valore e lavoro nei prossimi anni. Io onestamente metterci dietro una sigla 4.0, 5.3 a me ecco, non benissimo. Piace. Lei è anche un personaggio pubblico perché è stato presidente di Confindustria nella sua provincia e poi è stato senatore. Anche sì, mi è toccato. Mi è toccato, l'ha fatto con piacere. Con grande piacere e con grande senso di responsabilità. Ecco, ma parliamo prima dell'esperienza in Confindustria, un bilancio, e poi dell'esperienza di senatore, un bilancio. L'esperienza di Confindustria è stata brevissima. Che incarico aveva lei? Io, guardi, sono entrato, dopo circa un anno mi hanno nominato senatore e quindi... Ma che cos'era in Confindustria? Ero presidente della territoriale della provincia di Ancona. Quindi diciamo che governavo la provincia di Ancona che, come lei ben sa, è una provincia abbastanza frizzante a livello industriale. Quindi ero a capo di... È stato contento di questo? Ero abbastanza contento. Io poi dopo non è che sia un grande fan di Confindustria, perché secondo me ci sono tante cose da cambiare. Noi industriali siamo bravi a predicare bene, poi dopo alla fine razzoliamo anche un po' maluccio. C'è poca razionalità, c'è poca condivisione, c'è poco colloquio. Secondo me si potrebbe fare tanto di più. C'è bisogno veramente di fare uno scatto d'orgoglio in avanti. Ecco, il colloquio e la condivisione sono dei punti molto importanti per lei. Lei una volta mi disse, quando noi parlavamo privatamente, che l'Italia è poco produttiva, il problema della produttività perché si parla poco. Sì, assolutamente, in fabbrica, nelle aziende bisogna parlare di più, perché guardate, l'obiettivo delle imprese oramai è chiaro, è un obiettivo di cercare di crescere, sopravvivere e vincere in giro per i mercati, e questo è a vantaggio di tutti, e se parliamo di queste cose, se facciamo capire bene a tutti, dal primo all'ultimo, quello di cui c'è bisogno, e se l'ultimo, e intendo per ultimo, magari l'ultimo arrivato in azienda ci fa capire quello che serve o quella qual è la sua il suo punto di vista, io penso che le cose potrebbero veramente migliorare. Cioè lei addirittura dice che il problema storico della produttività dell'Italia, che è in declino ed è un dramma, ha tra le sue maggiori cause il fatto che in questo paese, all'interno delle fabbriche e delle aziende, si parla poco? Assolutamente, assolutamente sì. Noi diciamo che abbiamo storicamente una frattura, c'è una frattura tra un gruppo di lavoro e un altro gruppo di lavoro che non dico che è insanabile, però che sicuramente ha creato una ferita e che ci stiamo trascinando da tanto tempo. Noi dobbiamo cercare di aumentare veramente la condivisione e la comunicazione all'interno delle imprese. E questo lo dico partendo da me, cioè devono partire gli imprenditori, perché non possiamo dare sempre la colpa agli altri. Quindi io do la colpa a me, a noi come categoria. Ah, un'assunzione di responsabilità, che è una cosa fantastica, perché altrimenti stiamo sempre tutti a lamentarci. Eh beh sì, la colpa è sempre dell'altro. Il no, piagnisteo italiano, ci si potrebbero scrivere dei volumi, sono già stati anche scritti. Però ecco, restano pochissimi secondi, ma lei è contento di aver fatto il senatore nel PDL? Lo rifarebbe? No, io non lo riferirei, perché mi sono annoiato tantissimo. Io sono uno che ama andare in bicicletta, ama fare le cose attive e soprattutto portare a casa i risultati. Io ho passato 7 anni al Senato e ho combinato poco, perché le regole non me lo hanno permesso. Io sono abituato chiaramente a stare al timone di un'azienda, quindi a portare dei risultati velocemente. E invece nella politica deve cercare il consenso per le sue proposte. È un compromesso continuo, non si finisce mai, c'è sempre dietro l'angolo il trabocchetto, il TAR arriva sempre per bloccare tutto quanto, e quindi... Ma lei che cos'è che voleva fare che non le è riuscito di fare? Ma guardi, io mi sono occupato di energia, qualcosina l'ho fatta, quindi ho lavorato sull'ENI, ho cercato di dividere la rete gas Snam dall'ENI e lì ci sono riuscito, ma c'erano tante altre cose da poter fare, c'era l'ultimo miglio, c'era la possibilità di migliorare appunto il discorso della telefonia, di rendere il mercato più libero, di avere la possibilità anche sul cioè lei voleva fare il vero liberale e non le è riuscito. Io volevo fare, io sono un vero liberale, però ho capito che con le nostre regole e con la nostra società è impossibile oggi far passare queste idee liberali. Che peccato, purtroppo dobbiamo chiudere. Viva le fabbriche, viva l'acciaio, viva l'elica, viva l'elica e viva i robot. Buon sabato a tutti.